Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziando a tutti voi per l'ascolto e ringraziando Luca Giulio per la precisa regia, vi rinnoviamo l'appuntamento a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.